24 di Giovanni Minoli. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Si chiude dunque un ciclo alla guida del Partito Democratico. Credo che sia buon senso da parte di chi ha responsabilità accettare l'invito a fare il congresso prima delle elezioni. Vinca chi ha le idee migliori e chi si mette in gioco e non vince, il giorno dopo dia una mano a chi ha vinto. Matteo, tu non sei il mio avversario, ma il punto è se la tua politica è oggi quella giusta per fermare e sconfiggere quella destra. La prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani è quando si vota, eh? Ma noi possiamo lasciare un punto interrogativo. Guardate che mettiamo l'Italia nei guai. Prima, sono quello che l'ha votato lui. Non è che sono cambiato solo perché adesso sono un po' perplesso sul proseguire con lui nella guida del partito. Noi siamo comunque la stessa comunità, non dovrebbe cambiare niente se lo fa lui il segretario, se lo faccio io, se lo fa Enrico, lo fa un altro. Io so. Per me la scissione è un momento traumatico. E mi verrebbe voglia di considerare questo una sorta di ricatto morale. E se scissione deve essere, ma io spero di no, che sia una scissione senza alibi. Certo non con l'alibi del calendario. Allora, buongiorno, bentornati su Mix 24. Buongiorno all'onorevole Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Allora, onorevole Boccia, un Renzi inedito, quello di ieri, inclusivo, pacato, disponibile, oppure no? Renzi che abbiamo conosciuto in questi anni. Io non ho trovato un Renzi inedito. Sa, una persona che dice se scissione deve essere che non abbia alibi, significa che è una persona che non esclude la scissione e con i suoi comportamenti non fa altro che alimentare questo sentimento. Cioè, che quindi non lei, è... lei è sorpreso dalla relazione di Renzi o è esattamente quello che si aspettava? Trovato grandi novità in questa relazione, è ancora il segretario che cerca lo scontro per lo scontro. Ieri io mi sarei aspettato l'annuncio di dimissioni, il passaggio ad una segretario, ad una segreteria di transizione, esattamente come hanno fatto i suoi predecessori. Da quando vabbè, avverrà sabato, no? Questo passaggio. Penso di no, perché anche lì vorrà stravolgere le regole, vorrà aprire immediatamente il congresso, che va bene, sai, io il congresso l'ho chiesto il 5 dicembre mattina. Il problema è consentire ai tuoi avversari, che hanno idee politiche diverse, alternative, di girare l'Italia in 3 mesi presentando le loro mozioni. Qui si tratta di capire che PD vogliamo, con chi vogliamo che sia lei, per far cosa, con quali ricette. Però comunque Renzi, in ogni caso, Renzi ha detto congresso sì, ma la data delle elezioni, che era quello che si chiedeva, lei stesso l'ha detto, ma la data delle elezioni non la decido io, ma la decide il Presidente della Repubblica, quindi non sono due questioni separate, quindi a questo punto di vista... Sì, però c'è sempre questo approccio un po' furbesco, decide il Presidente della Repubblica sulla base di quello che dicono i leader dei partiti e noi siamo il più grande partito del paese in Parlamento, spero che il PD lo sia ancora tra la gente, ma in Parlamento decidiamo noi, nel senso che il capo del PD decide anche quando è finita l'esperienza di governo e ieri non aveva detto una parola chiara. Però, sui tempi del governo Gentiloni, secondo me è stato grave, tant'è che l'ordine ha detto del giorno che si decide tutto insieme con Gentiloni, quindi mi è sembrato non un Gentiloni stai sereno, ma siamo insieme. Beh, non mi pare, no. Guardi, se fosse vera questa opzione, sì. Quando è stato presentato l'ordine del giorno delle cosiddette minoranze, che non ha voluto far votare anche qui con una forzatura di Orfini, che è sempre più un presidente di parte, non un presidente di tutti, e poteva mettere i voti l'ordine del giorno che diceva sostegno pieno a Piero Gentiloni fino a fine legislatura e apertura del congresso. Vabbè. Parallela. Vabbè. E non è stato votato questo documento, è stato votato il suo documento che dice congresso adesso subito e poi si vedrà. Vabbè, però anche io insisto, c'è anche un rispetto del ruolo del, del capo dello Stato, insomma, in questa posizione, obiettivamente. Capito, però, no? Non abbiamo detto che decide Renzi quando si vota, ma chiesto a Renzi, segretario del partito, di esprimere la sua sulla dita del governo Gentiloni. Ma dire che sulla base del calendario non si può fare una scissione mi sembra una frase di buon senso. Siamo no? Totalmente d'accordo. Senta, l'astensione di Orlando dalla linea di Renzi cosa significa? Che si allarga il fronte antagonista, secondo lei? Si allarga il fronte alle persone che pensano con la propria testa. Orlando è una persona libera ed è una persona che al PD ha dato tanto in questi anni. Senta, ma in questo scenario, in qualche modo, il kingmaker di Renzi è sempre di più Franceschini? Ha un ruolo rilevante nell'equilibrio dell'attuale maggioranza del partito. Cioè, quindi lo è? Quindi è il kingmaker, ha un ruolo rilevante, sì. Certo, non c'è dubbio. I numeri sono politica quelli. Contano E quindi Franceschini rappresenta numeri decisivi. E quindi Renzi deve tenerne sempre più conto, diciamo. Evidente. No, vabbè, ma insomma, tanto per dire le cose con chiarezza. I numeri sono numeri sempre, non parlano mai, né in economia né ma quindi, e quindi secondo lei, se ho capito bene, il governo Gentiloni invece non esce rafforzato con un orizzonte più sereno da questa direzione? Assolutamente no, nel senso che lo sapremo nel fine settimana quando faremo l'assemblea, perché se Renzi forzerà imponendo un congresso lampo, un congresso con rito abbreviato come l'ha definito ieri Emiliano, penso che a quel punto la vita del governo Gentiloni sarà segnata. Se invece fisseremo come fase finale del congresso, che il congresso inizia subito, ma si tratta di capire quando finisce, cioè quando c'è il voto finale con le primarie aperte, per intenderci, quel voto si farà a fine giugno e allora è evidente che il governo Gentiloni potrà proseguire almeno fino all'autunno. Viceversa, se si dovesse votare ad aprile, secondo me è finita la vita anche al governo Gentiloni. Senta, onorevole Boccia, si è parlato molto per alzare un po' il livello del discorso e uscire dai tecnicismi della politica politicata. Si è parlato molto di Trump ieri in questa sede, Trump come uno spauracchio, i partiti sovranisti, dice soprattutto Bersani, stanno rubando elettorato e identità al PD, è vero? Sì, è vero, e io spero non stiano rubando elettorato, più che identità stanno cavalcando dietro l'elettorato, dietro l'identità poi c'è l'elettorato. Sì, stanno cavalcando le pulsioni, diciamo, della classe media, stanno di fatto rendendo pronto? Eccomi. Sì. Pronto? Sì, no, c'è un problema al telefono. Ah, ecco. No. Era caduto. No. Stanno rendendo la classe media, stanno toccando le pulsioni peggiori e quindi la classe media quando si arrabbia ti manda a casa e in questo momento la classe media negli Stati Uniti, come in Europa, come in Germania, come in Italia, vuole certezze. E quindi la sinistra in realtà è in crisi in tutta Europa perché la globalizzazione selvaggia, che è quella che ha messo in crisi in Occidente la classe media, è arrabbiato, come dice lei, reagisce. Renzi ha colto nel suo discorso fino in fondo questo dato o no? Guardi, l'ha sfiorato. Che quando ha parlato di web tax Renzi, per la verità, per la prima volta in un discorso ha citato tre volte. E ha ammesso che l'errore, non è stato fatto nulla. Sì, però l'ha scaricata anche lui sull'Europa, come avrebbe fatto un Salvini qualsiasi. Però la web tax deve avere una dimensione globale per essere efficace, no? No, Minoli, siccome ne abbiamo parlato tanto, noi, sì, però ogni primo ministro deve fare un passo. La mia domanda è a Renzi: cosa hai fatto in questi 4 anni? Quando hai battuto i pugni sul tavolo con Juncker? Quando in quel contesto hai detto questa o niente, per esempio sul tavolo delle politiche fiscali, dove invece io vedo solo i veti di Lussemburgo e Irlanda, Lussemburgo paese principe dell'elusione fiscale in Europa, e l'Irlanda che continua a vivere alle spalle nostre di tutti gli altri paesi che hanno un'imposizione fiscale corretta. Quella è la vera battaglia, la vera battaglia della web tax è quella. Che guardi, tocca anche la sinistra, perché la rivoluzione del capitalismo che stiamo vivendo determina una concentrazione di ricchezza senza precedenti. Se tu non intervieni, cioè se ti occupi dell'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, quando viene in Italia e gli metti da primo ministro il tappeto rosso per terra, e poi all'artigiano, al commerciante che ha problemi. Un commerciante non può fare i saldi quando li fa Amazon, perché se fa i saldi quando li fa Amazon viene multato. Esatto. Un commerciante non ha la libertà di Amazon, no. Paga le tasse. Esatto. E questa poi è la classe quello media. Quello è lo squilibrio che è diventato inaccettabile, lo è sempre stato, diciamo, però bisogna. Ma ora si vede di più. Si vede di più, esatto, di più. Esattamente. In questo senso, però, Trump è un elemento catalizzatore di questa, di questo errore, di questa stortura. E Trump reagisce dicendo vi difendo io, e nei momenti di difficoltà la gente si rifugia nel protettore di turno. Mi sembra giusto, però. Senta, Bersani ha detto che siamo di fronte a una nuova destra sovranista, identitaria, protezionista, che sta entrando, ha fatto un passo avanti dicendo che sta entrando nel senso comune, cioè che sta prendendo l'egemonia, un'egemonia culturale, ho usato un linguaggio quasi gramsciano, e produce immaginario. Ecco, questo è un nuovo storytelling, per dirla con Renzi. Sì, lo è, siamo in una fase nuova della storia, siamo dentro una rivoluzione, l'ennesima rivoluzione del capitalismo, secondo me ancora più dirompente di quelle avute con l'AI, l'energia elettrica o i computer degli anni 60, e grande partito di sinistra dovrebbe interrogarsi sugli effetti di questa rivoluzione. Beh, il linguaggio però, il linguaggio oggi improvvisamente sembra un linguaggio vecchio, quello del PD, e il suo programma va aggiornato, insomma. Non c'è dubbio. Ma in che sede si aggiorna il programma del PD? Perché questo non è ancora chiaro. Beh sì, nella sede propria, cioè quella di... Io avrei messo insieme la proposta di Orlando di una conferenza programmatica, che sembra una parola vecchia, consente ad un partito di votare non sulle persone, ma sulle idee, sulle azioni, sulle idee, sui principi, sui valori, e dopo aver fatto questo percorso di 2-3 mesi, coinvolgendo tutte le associazioni, certo, i movimenti, università, i centri culturali, i centri sociali, tutti coloro che hanno da dire qualcosa. È caduta la linea? Conferenza programmatica. La conferenza sulla conferenza. Cioè, proprio sulla conferenza programmatica non c'è speranza. Renzi non la vuole, ha tolto la linea. In qualche modo, vediamo se riusciamo a ripristinare questa linea, perché non abbiamo finito, abbiamo ancora delle cose sull'economia soprattutto, che poi sono lo specifico di Boccia. Ecco. Senta, Renzi ha vantato i successi economici del governo. In realtà però l'Italia è il paese che cresce meno in Europa, la metà della crescita media dell'Europa. Dove è stato l'errore di Renzi, se c'è stato? No, l'errore c'è stato ed è stato quello di disperdere in mille rivoli l'opportunità, risorse, che c'è stata, le risorse disponibili. Pensi agli 80 euro. Sarebbe stato più opportuno metterli tutti a riduzione dell'IRPEF, partendo dall'aliquota più bassa, anziché darli ad una fascia di popolazione. Sì. E poi tenga conto, Renzi ieri ha messo sul tavolo temi connessi al fiscal compact, sì, dimenticando di dire alla platea che lo ascoltava che dal 2012 ad oggi l'Italia ha risparmiato 17 miliardi di interessi l'anno, cioè, certo, nel 2016 noi abbiamo pagato 17 miliardi in meno in un anno di interessi sul debito rispetto al 2012. Sì. Tra l'11 e il 12 tra lo spread di Berlusconi è andato su, e poi Monti, momento difficile del paese, è successo tutto questo. Quei soldi più i soldi della flessibilità, 19, altri 10-11 miliardi, sì, l'anno. Stiamo parlando di tanti soldi che sono anziché stati metterli nei rivoli del sistema, dovevano essere concentrati o su una riduzione coerente delle imposte o su investimenti pubblici. Sì. Senta, non c'è niente né una cosa né l'altra. Oggi noi abbiamo meno investimenti pubblici di 3 anni fa, se a lei sembra una cosa... No. Ecco, ma in concreto però la manovra di bilancio nei prossimi 3 anni prevede 120 voci di spesa e 44 miliardi di impegni. Ecco, come si fa a onorarli? Perché questi sono tutti rivoli che poi sono, vanno coperti. No, sì, intanto se il paese crescesse non avremmo problemi. Lo so, ma non cresce. Se cresciamo, per farlo crescere bisogna avere il coraggio di fare alcune cose, redistribuire ricchezza, cosa che un governo di sinistra dovrebbe fare. Cioè io non posso pensare che il mio segretario si vergogni di far pagare le tasse a chi non le paga, e mi riferisco soprattutto a Amazon and Company. Noi invece prendiamo il numero 2 di Amazon e lo mettiamo a Palazzo Chigi. Poi è ovvio che Amazon ha la certezza di essere coperto. La consapevolezza di essere coperta e di non doverle mai pagare le tasse. Siamo in un paese in cui ci sono 17 miliardi di fatturato del commercio elettronico, il 90% nelle mani di una multinazionale, tasse pagate zero, o meglio le paga quando il procuratore della Repubblica di Milano Greco finisce un'indagine. Possiamo andare avanti in questo modo? Perché se così è, nominiamo Greco ministro dell'economia e facciamo prima. Questa mi sembra una proposta concreta, efficace. Senta, comunque il PD, questo PD non sembra capace di essere il partito maggioritario, ma neanche di aggregare. Con chi si fa l'alleanza per vincere? Perché poi per vincere bisogna avere i numeri, come dice giustamente lei. Farla nel paese l'alleanza, perché le forze politiche che in questo momento sono in Parlamento io penso non rispecchino più il paese. Questo, ci sono forze politiche che non esistono, questo ogni italiano lo sa, ogni italiano lo quindi sa. Quindi quando se scopri il sentimento degli italiani solo quando si sciolgono le camere è tardi e fai una brutta fine. È chiaro che anche per noi il congresso serve anche a dirci con chi vogliamo allearci. Io vorrei ricostruire come Bersani, Emiliano e tanti altri il fronte a sinistra. Quando vedo i movimenti ci sono a sinistra, tra Boldrini, Pisapia, l'esperienza di Civati che purtroppo è andata fuori dal PD e moltissimi altri compagni. Vabbè, però sono numerini, mi sembra. Leggendo i sondaggi non mi sembra che lì si va in maggioranza e si governa il paese. Però il fronte è questo. Poi se convinci gli italiani su una proposta forte che parte da sinistra, non è detto che non arrivi al 40%, dipende da cosa ti impegni a fare e per chi. Senta, comunque succederà anche dal centrodestra o per il Movimento 5 Stelle. Poi dopo le elezioni si vedranno i numeri e si deciderà cosa è meglio fare. Senta, ma quella di ieri, per dare una sintesi, è una tregua armata o un inizio di pace costruttiva? Guardi, io auspico che sia davvero un inizio di una nuova stagione. Ho la sensazione che Renzi non abbia ancora capito la lezione che tutti abbiamo preso il 4 dicembre. Senta, onorevole Boccia, ma però ieri, per chiudere, c'è stato un risultato bulgaro a favore di Renzi nella votazione sulla sua relazione. Anche qui segniamo un velo pietoso. Cioè, perché è pietoso? Io chiedo semplicemente correttezza. No, ma intanto, come le ho detto, non è stato fatto votare l'altro documento, e tra l'altro era stato presentato prima, quello che diceva le cose che le ho detto prima. Sì. E poi anche il modo di contare, una roba fatta. Si conterà 1, 2, 3, 4, no? Purtroppo no, si fa occhio e si dice, per darle il senso, in direzione siamo 150-160 quelli che votano. Ieri è stata fatta un'assemblea con 800 persone, una cosa oceanica, c'è gente invitata. Poi qualcuno dovrà dirmi Padoan perché c'è venuto, perché se inviti il ministro dell'economia lo fai parlare e non gli fai fare la bella statuina alla direzione del PD. Il ministro dell'economia, tra l'altro, non è iscritto al PD. Il presidente Gentiloni è venuto per educazione e correttezza, è stato lì per la relazione e poi è andato via. Il ministro dell'economia, io mi sarei aspettato un intervento che consentisse alla platea della direzione, poi ai votanti, di avere un'idea ancora più chiara. Vabbè, però lei dice non si vota uno per uno come si è votato a pacchetto, che ne so, una formula nuova? No, si si alzano le mani e poi c'è qualcuno che dice 10, 15, 18, 27, 107. E se, secondo lei si può votare così? Io penso fossero a occhio un'ottantina, però al di là di questo, 80 o 107, Renzi ha una maggioranza schiacciante in questo momento. Benissimo. In una classe dirigente del PD, nella quale mi ci metto io, politicamente scaduta. Quindi oggi, come nella anche nella prossima assemblea, la relazione di Renzi sarà approvata dal 70-80%. Dato che è democrazia, la democrazia è quella. Di gente eletta come me 4 anni fa. Io chiedo semplicemente questo a Renzi: di fronte a questi scenari e sapendo che siamo tutti politicamente scaduti, ha senso utilizzare la forza di numeri che non c'entrano più con la realtà? Se vuole farlo è libero di farlo. Senta, ma lei, ultimissima domanda, onorevole Boccia, ma lei, il suo candidato alla segreteria, se ho capito bene, è il presidente della Puglia Emiliano, così no? Sì. Perché? Perché Emiliano intanto è un democratico vero, verace, è un costituente del PD, è una persona che viene dal popolo, è una persona libera, si è sempre occupato degli ultimi, ha in mente il partito di quelli che non contano nulla, di quelli che non hanno voce. Di cioè quelli... il vostro Papa Francesco, no? È un bel paragone, sì, è un bel paragone, ha un tratto molto simile ed è un uomo che sulle grandi questioni non fa compromessi, parte sempre dagli ultimi. E io, come lei sa, ci ho anche lavorato insieme nella prima fase della stagione a Bari, per 3 anni. Io sono stato il suo assessore dell'economia per 3 anni. Vabbè, quindi non c'è un rapporto che viene da lontano. Voglio dirle questo: non c'è stato un giorno in cui mi abbia chiesto una cosa. Io avevo tutte le leghe economiche della città, ho deciso con un gruppo di professionisti molto seri, non c'è stato un giorno in cui il sindaco mi abbia detto no, per quieto vivere conviene far questo anziché quell'altro. Vabbè. Ha sempre avuto rispetto delle competenze. C'è Mario Secchi che vuol chiedere, farle una domanda. Buongiorno Boccia. Ma perché, nessuno ieri in direzione ha detto che l'Italia cresce esattamente la metà rispetto alla media della crescita europea e addirittura parecchio, parecchio, parecchio sotto rispetto al più 3,2 della Spagna? Se ci fosse stato il tempo per fare una direzione, ma sai che ci sono state 50 persone che non sono intervenute perché il presidente Orfini aveva fretta di chiudere alle 19, perché pare che così gli avesse chiesto Renzi. Era comprensibile quando faceva anche il presidente del Consiglio. Ieri mi è sembrata una scelta a uso e consumo dei TG. Altrimenti gliel'avremmo detto. Vabbè, vince sempre la televisione. Pietrangelo. Eccomi, una domanda. I lavori della direzione del Partito Democratico si sono aperti non con l'inno di Mameli, ma con l'ultima canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Cosa ha provato lei, Boccia? A me piace molto quella canzone, quindi ho sorriso, devo dire, però avrei preferito ascoltarla in un altro contesto. Le confesso che l'avevo ascoltata molto la sera prima a casa con mia moglie e la piccolina e domenica. E le è piaciuto mattina. Quindi il Festival di Sanremo? Sì, l'ho seguito in intermittenza perché ero in giro per impegni. Però le è piaciuto, Sì, insomma, viva questa RAI, insomma. Non esageriamo. Ah, va bene. No, la RAI... è un disastro, Bene. Un disastro e vero. Anche il PD però, no? Se vuole ne parliamo, va bene. È un disastro. Conti e la De Filippi insieme è come se mette in un è il Nazareno 2.0, cioè Higuain che gioca sia nella Juve che nel Napoli. Esatto, va bene quando si fa un evento che sia uno, cioè la partita del cuore. Esatto. Va bene. Quello è stata una partita del cuore, però non è la vita di tutti i giorni. No. Sanremo, grazie onorevole Boccia. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. 24. Beh, Pietrangelo, che sentiamo stamattina? Eccola. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più. Pieno di dervisci oggi, distribuivano oblio e ricordo, scagliavano frecce di gioia, veloci come leopardi, lesti a dire arrivederci e ciao. Ha chiamato Efesto, ha chiamato direttamente da Milo, ha voluto questo brano con una dedica a Core e un messaggio: il padrone di un cuore è sovrano di tutti i cuori. Io bevo, cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. Adesso con Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperative Goel, vi raccontiamo la storia di un'impresa sociale impegnata dal 2003 nel promuovere il cambiamento socio-economico della Locride e della Calabria. Ecco, Vincenzo Linarello, cos'è Goel? Goel è un progetto di riscatto per la Calabria, dove alcune cooperative sociali, partendo dal sistema di produzione di precarietà governato dall''ndrangheta, da un reticolo anche di massonerie deviate, ha deciso di creare, di promuovere, per cercare non solo di denunciare ma di costruire, qualcosa. Ecco, tra le altre cose, Goel gestisce la produzione agroalimentare biologica aggregando dei produttori che sono stati vittime di aggressioni mafiose. E voi cosa gli garantite di più e di diverso? Noi abbiamo uno slogan: l'etica non può essere solo giusta ma deve essere efficace. Quindi, di fronte a un mercato locale che paga 5 centesimi al chilo i produttori e che dà origine a fenomeni come quello della rivolta dei migranti a Rosarno, noi abbiamo creato una filiera che dà loro 40 centesimi al chilo, 8 volte di più, il prezzo più alto pagato nel mercato in Calabria. Ecco, questo mi sembra proprio l'etica che diventa fatto. Ecco, Goel gestisce anche un tour operator di turismo responsabile. Esattamente che vuol dire? Turismo responsabile è un turismo diverso, fatto di turismi alternativi, ecologico-ambientale, enogastronomico-biologico, culturale. Facciamo tour della legalità per le scuole superiori e lo facciamo anche qui con quelle aziende turistiche, hotel, strutture ricettive, ristoranti che hanno detto no all''ndrangheta, per dimostrare che possono. Che si può fare. Ecco, esatto. A Locri un bene confiscato alla mafia era stato assegnato gratuitamente a voi perché diventasse un ostello, è così, no? Esattamente? Ecco, un ostello riservato a chi? Questo ostello era nato da questo bene confiscato alla Cosca che, essendo stato messo a bando all'inizio del 2016, la gara era andata deserta. Quindi come Goel ci siamo indignati e abbiamo detto: ripresentate la gara, noi ci presenteremo. E avete vinto. L'abbiamo avuto. Ecco, prima ancora che ci mettessimo piede. Ecco, dico, se ho letto bene, sono informato, dottor Linarello, mi pare che appena dopo 10 giorni dall'annuncio della giudicazione a voi, a Goel, dell'ostello, è capitato qualcosa. Cosa è capitato? Furti, danneggiamenti? Sì, è stata distrutta una videocamera, divelta una porta, rubata 3 cisterne, un motore di pressurizzazione. Quindi un segnale, 20.000 euro. Quindi un segnale preciso, 20.000 euro di danni, un segnale preciso, mi pare, no? Non sappiamo sicuramente chi è stato, indagheranno, ma certo che colpisce la tempestività con l'annuncio di aggiudicazione dell'ostello. Quindi 20.000 euro di danni subito. Assolutamente. E chi paga adesso? Ma adesso ci siamo sentiti col sindaco del comune di Locri e stiamo vedendo come riuscire a coprire questi danni. Quello che è sicuro è che noi questo ostello lo apriremo e lo abbiamo ribattezzato Locride perché vogliamo farne un eco ostello di qualità etica ed ambientale che sia il simbolo di una Locride diversa che non piega la testa di fronte all'andrata. Mi dica una cosa, dottor Linarello, ma i soldi, voi, i finanziamenti, voi dove li prendete? Come fate se pagate 8 volte tanto, per esempio, il lavoro? Come fate? Dove prendete i soldi? Nel caso di GoelB abbiamo ricreato l'intera filiera di distribuzione, abbiamo saltato tutti i passaggi commerciali inutili, grossisti, intermediari. E quindi l'utile è lì. Locale. L'utile è lì. Esatto, e ricaviamo sia con la vendita dei nostri beni il ricavo e nello stesso tempo, qualora abbiamo degli investimenti da fare, in primis abbiamo come fonte le banche, la banca etica, le banche di credito cooperativo e poi qualche volta, ma in misura minoritaria, delle fondazioni ci aiutano come Fondazione con il Sud e altre fondazioni che ci stanno al fianco. Ho capito, bene, allora auguri per il vostro ostello e sappia che noi siamo qua e saremo interessati a sapere l'evoluzione del vostro lavoro, d'accordo? È importantissimo che ci seguite, ecco. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mario, tocca a te. Beh sì. Questa è la colonna sonora di Tron, che è un film fantastico di fantascienza, una sorta di proiezione nel futuro. La colonna sonora di Daft Punk, il titolo è Flynn è vivo? No. Flynn non è vivo, Flynn è morto non ieri. È vivo, è morto. Chi è Flynn? Flynn è, diciamo, il capo della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nominato da Trump, una nomina a mio avviso ingenua, in tutta la sua, diciamo, dalla nascita all'evoluzione. Flynn è un militare di carriera molto importante, con una storia importantissima, fu nominato da Obama a capo della DIA, che è il, diciamo, l'intelligence militare, per essere chiari, e però ha commesso un gravissimo errore con questa amministrazione, cioè quello di andare a parlare con l'ambasciatore russo anche di sanzioni il 29 dicembre, se non sbaglio, e negando però di averlo fatto. Dopodiché è chiaro che tutti i nodi vengono al pettine, soprattutto se tu sei in quella posizione e soprattutto in un contesto nel quale le relazioni tra Stati Uniti, Russia e questa amministrazione sono sempre, diciamo, guardate con una certa attenzione. Trump ha accettato le dimissioni, le scuse, Flynn ha mentito a Pence durante un colloquio. Resta il fatto che a mio avviso si tratta, come dire, di quello che si chiama mismanagement, cioè un errore di valutazione dell'uomo. Il fatto che lo avesse nominato Obama non significa che fosse una scelta di qualità, anche perché il suo operato alla DIA non aveva un record di eccellenza e infatti fu poi allontanato. E il fatto che, diciamo così, bisogna ogni tanto, come si dice quando tu devi abbozzare, insomma, in questo caso invece bisognava agire subito. È il primo vero, secondo me, punto debole mostrato dall'amministrazione Trump. Vedremo durante la sua avventura. Sono 25 giorni, hanno sbagliato, a mio avviso, su questo punto. Vediamo. Pietrangio Salamino. Berdini che va, Totti che viene. Per un Paolo Berdini che se ne va, l'assessore all'urbanistica della città di Roma, c'è Francesco Totti ad avvicinarsi a chi? A Virginia Raggi. Non vuole l'Olimpiadi la Raggi, vuole lo stadio. E lo stadio però deve avere 3 grattacieli che contraddicono lo sviluppo orizzontale per fare di Roma una città verticale. Per che cosa? Per lo sfruttamento di quei luoghi. E a voi piace 5 Stelle? Mi piacciono questi ragazzi, mi piace questa gente che sta dalla parte degli sfruttatori e di quelli che vogliono distruggere ancora una volta Roma, quelli che stanno intorno a Grillo e alla Raggi, vogliono gli speculatori a Roma per distruggere la città. Ed è Vittorio Sgarbi a parlare. Dunque c'è un Francesco Totti ad avvicinarsi a Virginia Raggi e non certo per un famolo strano, ma per un hashtag famostostradio. Sono 354.000 metri quadrati a Tor di Valle. Un affare di oltre 2 miliardi. Berdini se ne va rimpianto da Asorrosa Giovanni. Rimpianto da Tommaso Montanari Giovanni e rimpianto da tanti austeri professori dello chic e dello charme e così per dirla con Daniela Ranieri tutti gli aristodem che lo rimpiangono e tutti se ne vanno disperati e chi resta accanto a Virginia Raggi resta appunto Francesco Totti, il capitano della Roma, e Vittorio Sgarbi, critico d'arte, chiede che cosa adesso: un incontro pubblico, una pubblica di sfida col capitano per discutere su quella che chiama la più grande speculazione edilizia mai vista nella capitale. Ma chi c'è accanto a Totti? D'accordo con lo stadio, si deve fare, non si deve fare. Si deve fare, ma rispettando quello che c'è da rispettare. Fa bene l'amministrazione ad essere attenta e severa su tutti i problemi, sono viabilità, speculazione. Senta, cosa pensa della Raggi, di quello che sta succedendo? A me piace tantissimo, non sta succedendo niente. A me piace moltissimo la Raggi. L'avete riconosciuta? Sabrina Ferilli sta con Totti e quindi con la Raggi. Oh, però malizia qui ci vuole, e alla malizia, caro Giovanni, si accompagna la memoria d'archivio. Maliziosamente sul Libero oggi Francesco Specchia va a pescare una Virginia Raggi di qualche tempo fa, quando a proposito dello stadio diceva: è un'enorme speculazione immobiliare avente lo scopo fraudolento, dice fraudolento, di assicurare enormi vantaggi economici a società private a scapito degli enti pubblici coinvolti e a discapito dei cittadini. A scapito e a discapito, è tutto uno scapitare. Oh, tutto quello che dicevano i 5 Stelle ieri è un regalo, dice, non per i tifosi ma per i costruttori, i palazzinari. Lo predica adesso Vittorio Sgarbi, che è leader del Partito della Bellezza. Ma quindi? Quindi Berdini se ne va, c'è un Totti che viene, c'è una Raggi che resta, e la domanda che ci domandiamo è: lo faranno strano o faranno lo stadio? Ma chisto è? Chisto è pazzito, cioè il problema... Poche idee ma confuse. Sì, sì, Mario... Sanremo, Berdini e lo stadio, il massimo di dibattito pubblico in Italia è questo. E naturalmente la direzione del PD che si capisce bene, cosa ha fatto ieri. Evviva! Dai. Andiamo ancora in America. Che sono i Pearl Jam? Sono vivi? Sì, loro vivi. Allora, Giovanni, ieri, insomma, ha fatto una settimana stellare, la scorsa è iniziato alla grande anche questa, la borsa americana se ne infischia abbastanza di Flynn, bisogna dire certo. La verità, punta al sodo, scommette su Trump, ci sono i guadagni, i conti delle società americane sono molto buoni, morale della favola, l'indice Standard & Poor's 500 ha fatto praticamente 20.000, una capitalizzazione di 20.000 miliardi di dollari, parliamo di tutto il PIL americano. E ovviamente uno può dire: ma è una bolla. Come sempre in borsa c'è orso, di tutto, c'è orso e toro, c'è di tutto. Segnalo Apple perché la sua capitalizzazione è tornata in testa, ha superato di nuovo Google. Sono 700 miliardi, però sì. Uno poi va a vedere e dice: vabbè, ma cosa ha inventato di nuovo Apple nell'ultimo periodo? E cosa ha inventato? Niente. Niente. Nel senso che sfornerà un iPhone. Quindi 10. È speculazione. La borsa ha fame di utili, di buoni risultati, Apple li ha sicuramente, di investimenti, e Apple ha una cassa mostruosa, 230 miliardi. il surplus commerciale della Germania, per intenderci, da investire, e tutti pensano che appunto ci sarà un evento del genere, cioè che Apple reinvestirà molta della sua cassa in innovazione. Segnalo che secondo me tra queste ipervalutazioni delle società high tech e la quotazione Snapchat, che dovrebbe adesso quotare 25 miliardi, una società con un sacco di, diciamo, con una quotazione quantomeno opaca dal punto di vista dei numeri, eccetera, dovrebbe far riflettere sul fatto che probabilmente un pezzo dell'era high tech se ne sta andando. Ne inizierà un altro sicuramente, però. Vabbè. Insomma, okay. Canzoniere. Io investirei nell'acciaio. Nell'acciaio. Cosa stai facendo? Ma presto! Preparati a servire gli avventori per bene, perché il buon nome di una bottega dipende dalla buona maniera di quelli che vi servono. Padrone, per dirvi la verità, questo lavorare di buon'ora non è fatto per la mia salute. Pure... 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS per chi avesse inventato viabilità. Mix 24. La notte piccola per noi, troppo piccolina. Il 21 ottobre del 1961 andava in onda la prima puntata di Studio 1, varietà memorabile della Rai che prendeva nome dallo Studio 1 di Via Teolada. La notte vola. Autore e regista di questa trasmissione che ha fatto epoca è Antonello Falqui, un gigante della regia televisiva, un maestro indiscusso del piccolo schermo che ha trasformato il sabato sera televisivo in un evento imperdibile. Al suo nome sono legati i più grandi varietà della Rai e con lui hanno lavorato i più famosi artisti dell'epoca, Mina, le sorelle Kessler, Walter Chiari. Regia di Antonello Falqui, sentire proprio questa formula, regia di Antonello Falqui è come... dire, un viatico per il divertimento, per una serata piacevole. Una tecnica di ripresa raffinatissima, grande gusto, grande gioco di campi e controcampi, grandi movimenti di macchine raffinati, beh, insomma, era un'altra televisione. Studio 1, Canzonissima, Mille Luci restano prototipi di uno spettacolo di intrattenimento ancora tutt'oggi ineguagliato. E mentre il passato torna di moda anche in televisione, la fiction italiana, proprio in questi giorni, celebra il più famoso dei registi televisivi. La notte della tele. Mario, te lo ricordi Falqui, eh? Fantastico. Sì, molto. Insomma, grande televisione. Grande televisione, mista al varietà. C'hai un aggiornamento? Ma dunque, io ti darei questo aggiornamento, e cioè che la produzione industriale giapponese va molto bene, più 0,7. Tu dirai perché? Perché è importante, perché... A, l'Asia è comunque la contemporaneità fino a prova contraria. E B, perché il modello di Shinzo Abe per molti, ieri leggevo una cosa su Bloomberg interessante su questo, è considerato come un modello per Trump, per l'amministrazione Trump, cioè un nazionalismo temperato e responsabile. Ora, bisogna anche dire che Abe, quando esordì al governo, dissero di tutto. Sì, me lo ricordo. Dissero di tutto. Abbiamo parlato molto. Abe uguale Hitler e così via. Come sempre, il tempo è galantuomo e poi dà l'esatta misura e la cifra delle imprese buone o cattive di uno statista. Bene, adesso con il professor Roberto Bernabei commettiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Lancet, dicembre 2016. Trattare l'accumulo di proteina tau nella malattia d'Alzheimer. Due sono le caratteristiche della malattia di Alzheimer, almeno le caratteristiche di anatomopatologiche, cioè le lesioni che andiamo a trovare nei cervelli dei malati di Alzheimer, sono la presenza di placche extracellulari di una sostanza chiamata amiloide ed il deposito intracellulare di una proteina, la proteina tau. Si ritiene che questi siano i due fenomeni che impediscono il normale funzionamento del cervello, le cause eziopatologiche della malattia, anche se, chi lo sa, ci sono molti che cominciano a dubitarne. Però ci sono stati quindi decine e decine di tentativi per impedire l'accumulo di amiloide o di proteina tau, rispettivamente fuori o dentro la cellula. Risultati ad oggi negativi, anche perché fatti su persone che avevano già l'amiloide o la proteina tau. Certamente impedire che queste sostanze si accumulino è diverso dal doverle rimuovere, perché questo è il problema, che cominciamo la terapia quando le sostanze si sono già accumulate. Ma vediamo i risultati di questo trial di fase 3, dove si è testata leucometinil-tionina, che inibisce l'aggregazione di tau dentro le cellule. Erano 890 pazienti con Alzheimer lieve e moderato, già in trattamento con i farmaci sintomatici che abbiamo disponibili, reclutati in 115 siti di 16 paesi. Vedete solo quanto è l'importanza di fare questi studi, ma quanto costano, perché andare in 16 paesi, in 115 centri diversi per reclutare questi pazienti, certamente è un'impresa. 618 hanno completato lo studio di 65 settimane, nessuna differenza con il placebo. L'ennesimo risultato negativo che purtroppo accompagna ad oggi la vicenda Alzheimer. Per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci presenta oggi? Oggi una canzone per chi affonda le radici del vero amore in un passato fatto di spiagge e acerbe gelosie. Adriano Celentano, Storia d'amore. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo.